Summertime di Elisabetta Fiorito. Voglia partecipare a tutte le lotte per i diritti dei disabili, definirsi diversamente abile anziché cittadino di serie B. Ma io con mio figlio non ci giocherò mai a calcio. Ma basket sì. Buon pomeriggio, bentornati a Summertime. Noi andiamo a Serra Mezzana di nuovo, dove c'è il festival, lo sappiamo, dell'ambiente, delle scienze e delle arti, Segreti d'autore, a cura di Ruggero Cappuccio, ma questa sera c'è una star particolare, Alessio Boni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao. Ma che star? Le star sono lontanissime, anni luce. No, no, no, sono più tangibile, io si può toccare benissimo, Alessio Boni. Ciao. Alessio, ma è il sogno di tutte le donne italiane. Ma smettila, ma che dite? Allora... Il sogno è dove sono adesso, guarda, mi ha fatto un regalo enorme Ruggero Cappuccio, che è un grande amico, tra l'altro. È un grande regista teatrale. Un grande regista, questo non è Sava Sandia, regista, autore, stava finto adesso di leggere proprio il suo libro meraviglioso. E sono in questa sua casa, proprio ospite, è una cosa fantastica, con una vista incredibile sul Cilento, un silenzio che è veramente raro. Poi a 500 metri d'altezza dormi da Dio. Grazie Ruggero, perché mi sta facendo fare una bella vacanzina. Allora, adesso... ecco, infatti. Sì. Sinestesia, allora, per chi non sa che cos'è, è un'associazione mentale che hanno delle persone, non è una malattia, sono delle persone che tu dici guarda quella panca verde e arriva nella testa un sapore, un gusto, che ne so, la castagna, guarda quel portico bianco e gli viene in mente la violetta. Sono delle associazioni mentali che fanno, e si chiama proprio scientificamente sinestesia, ed è uno dei personaggi, non io, che nel film ha questa associazione di, e quindi è stato chiamato sinestesia. Questo per chiarire che cos'è, super giù a soldoni, però invece... Tu interpreti Alan, però, il film, a quanto ho capito, parla di destino, ecco. Sì, un destino che si intreccia, sono quattro vicende di quattro persone, tra cui il protagonista è Alan, appunto, che avrà un incidente, subirà una variazione, non dico cosa succede, perché sennò tolgo e svelo il segreto, comunque succede un cambio enorme nella sua vita, e i quattro personaggi che li girano attorno, che sarebbe la moglie, l'amante, l'amico e lui ovviamente, vedono la situazione da punti di vista diversi. Questo intreccio di questi quattro personaggi fa il film. Allora, intanto fai un altro film, perché poi in questo periodo, in questi ultimi due anni, tu ti sei anche molto dedicato al teatro. Io sono sempre stato, io vengo dall'Accademia d'Arte Drammatica, quindi prima di fare anche un film con Carlo Rizzani, che mi ricorderò sempre, il primo film che feci, La Donna del Treno, avevo fatto 7 anni di teatro, solo teatro. Vengo dal teatro, c'è stato un momento di grande intensità cinematografica dopo La Meglio Gioventù, così mi sono fermato per 3-4 anni e poi dopo l'ho ripreso, non lo mollo mai, perché è una cosa importante, perché ti dà il termometro del pubblico, della gente che ti sta di fronte, dove va, dove si pare, poi c'è questo cordone ombelicale straordinario tra l'attore e lo spettatore, che è intimo, è fantastico, che si crea solo tra di noi, che è una cosa meravigliosa, credo che sia proprio l'essenza dell'arte della recitazione. Quindi quello non lo abbandonerò mai. Sono adesso in scena con Art, lo riprendo, che è questo testo scritto da Jasmina Resa accanto ad Alessandro Haber e Gigio Alberti, con la regia di Gian Piero Solari, lo riprenderemo anche quest'anno per il terzo anno, e spero di poi continuare a far sempre qualcosa interessante, perché il teatro è veramente importante per quanto mi riguarda. No, è importante pure per la nazione, anche se magari i nostri governanti ogni tanto se lo dimenticano. Senti Alessio, la tua esperienza anche come attore cinematografico e anche di sceneggiati è stata quella un po' del bello maledetto, hai sempre interpretato questi personaggi, il principe Andrei, Heathcliff, no? Com'è Alessio Boni nella realtà? Beh, è un po' Adriano anche, però, se hai visto Tutti pazzi per amore, quindi anche... Allora, tu ti identifichi con Adriano di Pazzi per amore? No, mi intriga molto la commedia, mi intriga molto l'ironia, solo che probabilmente partendo con La Meglio Gioventù, vinto Cannes, è un personaggio che è rimasto nel cuore di tutti quanti, appena trovano un personaggio con un mal di vivere, con un malessere interiore, così me lo propongono. Devo esserti sincero, mi piacciono molto, perché, che ne so, la dicotomia di Caravaggio piuttosto che le difficoltà di Giacomo Puccini, o comunque l'amore disperato di Heathcliff, il principe Andrei Bolkonski che muore in guerra, insomma, questi eroi che della letteratura piuttosto che della vita vera, vissuta, che ci hanno affascinato in tutti, almeno per quanto mi riguarda, fin dai tempi dell'Accademia, sono straordinari da interpretare. Non ultimo Walter Chiari, che era un genio della risata, però sotto sotto nel suo intimo, dopo l'arresto del 1970, c'è stato un declino, uno sfacelo, era il numero uno e pian piano si è ridotto a morire in un residence nella provincia di Milano senza più una lira. Quindi questi, diciamo, salti, anche nel tragico, anche nel drammatico, di una persona che compie un percorso nella sua vita mi affascinano moltissimo. Se tu mi proponessi un personaggio che fin dall'inizio alla fine è se stesso, non cambia più di tanto, non gli succede nulla, non lo so, mi attrae meno, non so perché, ma è così, fa parte di me. Io nella vita come sono? Non lo so, ditemelo voi, non posso stare qua. Ma più solare o più cupo? Ecco, questo però lo sai. No, no, no, sono più solare di tutti quei personaggi lì, ma scherzi, no, ci mancherebbe, la cupidigia, no, no, no, è solo una concentrazione per il lavoro, ma no, no, no, diciamoci la sincera verità, mi piace essere, sono italiano, mi piace molto ridere anche di me stesso e gioire di tutto ciò che ci circonda, siamo nella nazione più bella del mondo, e come legge di compensazione non poteva essere governata dai più grandi geni del mondo, forse, perché è così. Certo, l'ultima domanda, prossimi lavori. Allora, ti ho detto che ritorno a teatro Sì, con con Art e Art. adesso quest'estate sono in giro con una lettura su Alda Merini con Marcello Praier, facciamo una piccola tournée in giro fino a ottobre, poi devo andare in Birmania per il CESVI, che è questa ONG non governativa per i diritti contro le bambine, vado 2 settimane in Birmania, faremo un documentario e poi c'ho una proposta che non posso dirvi insieme a un'altra che sto decidendo adesso e quindi ho una cinematografica e una televisiva, devo scegliere cosa fare. Allora, ringraziamo Alessio. Ah, una cosa che mi preme dirvi, scusatemi, l'anno prossimo uscirà ovviamente l'Odissea che ho girato con i francesi in Portogallo. E tu fai Ulisse? No, Penelope. Ah. Una Penelope strepitosa. Penelope, Caterina Murino, io sarò Ulisse, sì. No, come Penelope, però non eri male, magari con i capelli più lunghi. Senza Allora, parte. Segreti d'autore a cura di Ruggero Cappuccio, ricordiamo a Serra Mezzana questa sera, Sinestesia, un film con Alessio Boni e presentato da Alessio Boni. Grazie. Ci sarà anche il regista Eric Bernasconi. Grazie a voi, vi aspettiamo stasera. Ciao a tutti. E noi andiamo, torniamo anzi a Caracalla perché sia stasera, sia domenica, sia mercoledì in chiusura è ancora in scena la Norma di Bellini e siamo un po' emozionate perché con noi abbiamo l'antagonista di Norma ad Algisa, il soprano Carmela Remigio. Buon pomeriggio, Carmela. Buon pomeriggio a tutti. Allora, cosa vuol dire interpretare, co come la vogliamo chiamare, un'eroina anche pura, no? Sì. La contrapposizione di Norma anche L'alter ego all'altra. giovane di Norma, che la chiamerei così ad Algisa. E in questa edizione romana si vuole riportare la Norma all'originale pensiero di Vincenzo Bellini, e cioè un'edizione per due soprani che il maestro Vlad ha voluto in questa occasione riproporre. Io credo che sia un'edizione vincente perché ad Algisa è appunto l'alter ego giovane di Norma e quindi meglio di una voce sopranile, più pura di Norma, non può esserci come soluzione drammatica. È un personaggio puro, però che prova passioni, che prova timore per la sua guida spirituale, cioè Norma, e però alla fine cerca anche di starle vicino e di aiutarla. Ricordiamo un attimo la trama, che appunto Norma è una sacerdotessa, figlia del capo dei druidi e che è innamorata di Pollione, del proconsole Pollione, ma di nascosto perché lei Sì. dovrebbe essere casta e pura, no? Sì, Casta diva. una E novizia, poi viva. Pollione si innamora di Adalgisa, insomma c'è un triangolo che definiremo a livello drammatico perfetto. In questo triangolo ci sono appunto due soprani. Una è Norma, che forse è un pochino un soprano più maturo, e Più maturo. Adalgisa è quella che ha i toni più alti? Sì, diciamo che dal punto di vista musicale le due donne cantano spesso gli stessi passaggi. È per questo che prima ho detto Adalgisa è l'alter ego di Norma, l'alter ego giovane di Norma, anche musicale. E diventerà forse quello che Norma è stata, perché Norma a un certo punto all'interno dell'opera dice anch'io mi sono, quando Adalgisa le racconta le sue pene amorose, perché è una storia d'amore la Norma, è una storia molto, molto profonda, bella, fatta appunto di passione, di tradimento, di amore per i figli, di, veramente molto interessante da un punto di vista sentimentale. E questa giovane ragazza è un po' in mezzo a tutte queste turbolenze sentimentali di Pollione e di Norma. Quanto ci si mette ad arrivare ad esibirsi a Caracalla? Cioè, quante prove ha un'opera come la Norma? Quali sono le difficoltà di uno spazio all'aperto? Ci sono difficoltà alle volte maggiori, perché c'è una dispersione del suono e non hai la percezione di essere dentro completamente uno spazio, ecco, di non riesci tu dal palcoscenico ad ascoltarti, ma la situazione è un po' particolare, anche perché vedi intorno a te una tale bellezza, devo dire, alle volte non puoi quasi guardare perché ho paura di deconcentrarmi mentre canto, devo concentrarmi sulla musica, io e il pubblico che deve godere dello spettacolo, sia da un punto di vista di bellezza intorno che è musicale. Forse la difficoltà è questa, di essere in un posto così magico e mantenere la concentrazione. E il fatto che la coprotagonista, cioè che la protagonista, sia un altro soprano, quindi canta nella stessa tonalità, è difficile? No, assolutamente. Anzi, in scena si viene a creare quasi una rivalità, però positiva, perché c'è uno scambio e uno sfidarsi, no, a suon di acuti, che può solo fare bene allo spettacolo, perché una sfida a suon di acuti. Ma insomma, lo dice così tranquilla, noi tremeremo. Poi ho dei colleghi stupendi, li vorrei se posso nominare tutti, dalla Norma Giuliana Di Giacomo, Fabio Sartori, Pollione e Riccardo Zanellato, oltre al direttore d'orchestra Gabriele Ferro e al regista Andrea De Rosa. Devo dire, poi è stato veramente un bel team di lavoro, abbiamo provato 15 giorni e siamo molto contenti del risultato musicale. Ma è vero che lei è una delle maggiori interprete del nostro bel canto, perché io ieri c'erano dei gossip a Caracalla, ero lì presente, e un critico mi ha detto: ah sì, Carmela Remigio è una bandiera del bel canto italiano. Si sente un po' così? Oddio, sono lusingata del complimento. Forse sì, lo faccio dire agli altri, non voglio dirmelo da sola. Allora, noi abbiamo apprezzato moltissimo Carmela Remigio, soprattutto perché avendo questa voce è così assolutamente modesta, low profile, però noi vogliamo sentire questi acuti, e ricordiamo, per sentire gli acuti di Adalgisa che sfida Norma non solo a livello sentimentale ma soprattutto a livello vocale, bisogna recarsi a Caracalla questa sera, venerdì 3 agosto, domenica e mercoledì, per la chiusura alla grande di questa kermesse estiva. Grazie Carmela. Grazie a tutti, arrivederci, vi aspettiamo. E noi andiamo al Tuscia Opera Festival in provincia di Viterbo, perché ci immergiamo in un'atmosfera in punta dei piedi, oseremo dire così, perché non osiamo parlare di Raffaele Paganini se non in questi termini, visto che incontra insieme a Samuel Peron la danza incontra il ballo, quindi ci sono due antagonisti che si incontrano. Buongiorno Raffaele. Buongiorno Elisabetta, buongiorno a tutti, come va? Bene, ma cosa succede in questo spettacolo? Ma succede di tutto, tutto quello che non dovrebbe mai succedere nello spettacolo. Non è vero, sto scherzando naturalmente. No, succedono tante cose molto simpatiche, cioè il fatto di incontrare i vari stili di danza, di ballo e cercare di costruire qualcosa insieme, perché poi, e poi insomma lo sappiamo che alla fine la cosa più bella è riuscire a mettere in piedi un progetto e realizzarlo e porlo in essere, come si dice. E allora questo è quello che stiamo facendo insieme a Samuel, insieme al mio gruppo. Samuel e le sue ragazze, lui avrà due partner con lui, io avrò la mia compagnia con me, e mettiamo insieme uno spettacolo che speriamo, cerchiamo, dia serenità e godibilità alla gente nel vederlo. Allora, si chiama Unica Passione, e tu insieme a Samuel Peron, che è poi anche uno dei protagonisti di Ballando sotto le stelle, metti insieme che cosa? La danza classica che ti appartiene con il ballo magari figurato? Questo avviene? Questo avverrà questo, perché noi all'interno di tutta la serata avremo dei momenti dove loro si avvicinano al nostro mondo e noi ci avviciniamo a loro. Per esempio abbiamo un momento dove ci sarà il tango, e quindi nel tango, sai, noi il danzatore classico studia tango, ma lo studia in maniera classica, e invece avvicinandoci a loro faremo il tango come si dice, tra virgolette, quello vero, no? E quindi noi ci avviciniamo a loro come loro si avvicinano a noi, in alcuni momenti un pochino più jazz, dove c'è un po' di classico, perché questi ragazzi, tra l'altro, sia Samuel che le altre due ragazze, hanno studiato anche loro un po' di danza moderna, quindi hanno fatto un po' di classico, hanno delle basi. Allora giochiamo, come dire, scusa la citazione, giochiamo a non giocare un gioco, giochiamo a divertirci un pochino. Stasera sarà così, sarà un divertirci tutti insieme, siamo in estate, un momento di vacanza, di rilassatezza. Io ho pensato di non portare il solito, non, ancorché meraviglioso, spettacolo intero, ma di fare una serata un po' mista. E per il Tuscia Festival abbiamo pensato proprio a questo. Ecco Raffaele, che cosa, qual è la difficoltà per un ballerino classico che si avvicina magari ai balli figurati, ai balli in coppia, no? Il ballerino classico, noi pensiamo a te quando voli, fai salti, atterri, ci fai volare pure a noi. E invece vederti, capito, che balli la salsa, balli la rumba, sì, e ci no. Sembra strano. No, hai ragione. In effetti io non ballerò la salsa e la rumba. Io farò sarò più concentrato per quanto riguarda il settore tango, che più mi si avvicina a loro, perché poi salsa e rumba veramente sembrano cose semplici, ma io li sto frequentando in questo periodo, sono molto complicati, hanno delle figure molto particolari e loro sanno bene come farle, quindi non mi avvicinerò più di tanto se non giocando a qualcosa del genere. E noi rimarremo sempre nel nostro mondo, loro rimarranno nel loro mondo, e i due mondi si fonderanno insieme. Porteremo, cioè, come dire, la nostra professionalità e la loro professionalità le metteremo insieme. Però poi gli stili di danza, di ballo, di tecnica rimarranno sostanzialmente gli stessi, anzi devono rimanere gli stessi. Quindi ci stai dicendo che anche per un ballerino del tuo livello poi ci sono dei balli che non sono così semplici da fare. Lo diciamolo, perché è vero, ci sono dei limiti, perché sono completamente diversi da quello che sono stati gli anni di studio miei. È vero, è altrettanto vero che con una base classica riesci ad avvicinarti con molta più facilità anche al loro stile, e in effetti un pochino io mi ci avvicino, però sinceramente è piuttosto complicato, bisognerebbe studiarlo almeno minimo un anno di seguito, di filato, per potersi avvicinare a quello che è il loro livello tecnico virtuosistico. Quindi mettiamola così, è come un po' chi fa il classico, che si dice poi che si possa andare anche a fare ingegneria, a fare tutte le facoltà, il ballerino classico poi alla fine, se studia un po', comunque può fare un po' tutto. Riesce a fare tutto. Se tu consideri una cosa, questa è una piccola parentesina, io all'età di 41 anni ho iniziato a ballare, a studiare il tip tap. Che uno dice, ma perché l'hai fatto? Perché mi piaceva. Ho iniziato a studiare tip tap e ho trovato grandi difficoltà, perché con la danza classica, sai, è tutto in fuori, si lavora tutto in fuori, invece il tip tap è tutto con i gambe in dentro, piedi in dentro, spalle dritte. E però con l'aiuto del classico, della conoscenza totale del proprio corpo, perché poi il classico principalmente ti insegna questo, noi siamo, cioè sono riuscito a raggiungere, non dico livelli altissimi, ma sono riuscito a raggiungere dei buoni livelli per quanto riguarda appunto il Tip Tap. Allora ricordiamo il 3 agosto con Raffaele Paganini, Unica Passione, insieme a Samuel Peron in piazza San Lorenzo a Viterbo, per questo spettacolo che unisce vari generi al Tuscia Opera Festival. Grazie Raffaele. Grazie a voi, un abbraccio forte, a presto, a stasera. Sotto quella porta io sono passata verso le tenebre, verso il macello dal cui fondo non fiotta più sangue. Ora, come sangue, sento scorrermi nelle vene il tempo. E noi andiamo ad Ostia Antica per incontrare un ospite che tante volte abbiamo avuto qui a Summertime, una grandissima attrice, Elisabetta Pozzi, che interpreta Cassandra o Del tempo divorato. Buon pomeriggio, Elisabetta. Salve, buon pomeriggio a tutti voi. Un misto tra Omero, Eschilo, Euripide, Seneca, ma anche un finale, quello con T.S. Eliot. Non è così, Elisabetta? Esatto, ma non solo. Nel frattempo sono passata per alcuni saggi di Jean Baudrillard, Denis de Rougemont e Massimo Fini, che tra l'altro mi ha aiutato nella stesura di questo testo, perché questa Cassandra è una Cassandra che vive attraverso il tempo e quindi non può che percepire e quindi in qualche maniera prevedere quello che potrebbe accadere presto, no? Nel senso che mi sono fatta un po' un viaggio in quello che è il mondo il nostro mondo contemporaneo e quello che oggi molti filosofi, saggisti, donne stesse percepiscono e quindi possono capire, immaginare che cosa il mondo in cui noi stiamo in cui viviamo, come può evolvere in qualche maniera, ecco. Ecco Elisabetta, tu a un certo punto parli di tutti quelli che sono i drammi femminili, intanto la veggenza, quindi si potrebbe paragonare all'intuito femminile. Sì, esattamente questo, cioè questa Cassandra è innanzitutto una donna e quindi dobbiamo ricordare che Cassandra ha avuto il dono della preveggenza dal dio Apollo, che però poi, avendo respinto il suo amore, viene punita da lui e non viene più creduta. Quindi è il dramma di una donna, di un essere umano, io direi, perché poi alla fine donne e uomini in questo senso si assomigliano, che vedono, capiscono quello che può accadere ma non vengono creduti, no? Quindi innanzitutto questo, l'incapacità di farsi capire, l'incapacità di gridare, no? E quindi di non avere più le parole per dire attenzione, sta accadendo questo, attenzione, e quindi quello, con tutto quello che questo comporta. Io ho messo l'accento proprio su questo fatto qui, sul fatto che Cassandra è un personaggio che nei secoli vive e nei secoli si porta dietro questo dramma. Cioè un essere che viene, che parla, che racconta, che capisce quello che può succedere e però poi non viene creduta. Quello di cui si parla è esclusivamente questa incapacità e impossibilità di essere creduti da un mondo che non vuol vedere, no? E quando lei dice il cavallo, di Troia intende, era troppo grande per le nostre mura, era ovvio che dentro ci fosse un inganno, no? E lo dice, lo urla Cassandra. Non viene creduta, eppure era talmente evidente che c'era sotto qualcosa che sembrava impossibile che i troiani non vedessero, no, l'inganno dei greci. E quello che sta accadendo un po' al mondo contemporaneo è un dramma che si ripete nei secoli, nell'andamento proprio del corso delle vite umane. Quindi una sorta di miopia che c'è in tutti noi. Brava. La cosa che mi ha sorpreso, poi non so se c'è in questo tuo nuovo allestimento, è questa fine tratta da T.S. Eliot. La vogliamo un attimo, se tu ce lo potessi fare, questo verso che è molto molto bello. È il finale, spunta l'alba e un nuovo giorno si prepara al calore e al silenzio, al largo sul mare. Il vento dell'alba increspa e scivola. Io sono qui, o là, o altrove, nel mio principio è la mia fine. E questo è proprio, in my beginning is my end. Is my end, esatto. L'ho preso anche perché forse dopo tutto quello che io butto fuori, dico e ripeto, prendendolo da Omero, Eschilo, Euripide, Zimborska e Wolf, in realtà poi passo, come dicevo, attraverso Baudrillard, attraverso Massimo Fini, nella modernità, no? E Poi però c'era, io sentivo il bisogno di un grande poeta che desse così un tocco di grazia, no? A un testo a volte molto duro, perché è un testo che dura 58 minuti, però è fortissimo, perciò il volo, no? Di un grande poeta forse era, lo sentivo assolutamente determinante. Poi mai come in Cassandra, quindi una veggente che è veggente già da bambina, sì. Può essere azzeccato, no? Questo finale nel mio inizio c'è, cioè la mia fine, esatto. Perché lei aveva già previsto tutto. Ringraziamo Elisabetta Pozzi, a ricordiamo voi. L'appuntamento al Teatro Romano di Ostia Antica, che chiude la stagione estiva del Teatro Romano, e con questo bellissimo spettacolo Cassandra. Ed è Cassandra, è ovviamente Elisabetta Pozzi. E salve, grazie a voi. E adesso noi andiamo a Civitanova Marche, che veramente dal 7 luglio fino all'8 agosto è la città della danza, perché ospita la 19ª edizione del Festival Internazionale Civitanova Danza. E parliamo un attimo con il direttore Gilberto Santini, come sta andando, perché insomma questo è uno sforzo enorme che fate. Sì, devo dire però uno sforzo piacevole, perché insomma come dicevi tu giustamente siamo alla 19ª edizione, quindi insomma alla piena maturità di una manifestazione importante per le Marche, non solo, perché devo dire purtroppo insomma la crisi in Italia sta creando qualche disattenzione sulla danza internazionale, quindi quest'anno devo dire che noto un pochino meno proposte. Questo è un peccato grosso, perché la danza, essendo un linguaggio assolutamente universale, consente di conoscere in maniera diretta altre culture, e quindi insomma siamo nelle barricate a difendere questa cosa, e devo dire è molto piacevole, perché davvero le emozioni legate alla danza, come quelle che il festival ci ha regalato finora, sono tantissime, quindi insomma sacrifici ma felici di farli. Ecco, molti sono anche gli artisti italiani, no? Vi siete un pochino specializzati quest'anno, se si può dire così. Beh, quest'anno c'è quasi un pareggio, un 1-1 Italia-Francia, devo dire. E l'Italia sicuramente, abbiamo iniziato con una specie di micro festival da giovanissimi come Daniele Ninarelli e Fabio Crestale, poi su fino al così all'Apollo della danza, che ha incantato non molti giorni fa all'Arena Sfestiera di Macerata, un pubblico devo dire incredibile, ha presentato un programma molto bello, devo dire che Genome l'amor con Roberto Bolle è insomma un'esperienza che rimane così nel cuore. Grazie infinite. Grazie, a presto. E anche per oggi, per Summertime, è tutto. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Un saluto da Elisabetta Fiorito.